parla Ipazia. Gli esseri umani che ricevono esperienza da altri, che rimettono ad altri il compito di stabilire il giusto e l'ingiusto, sono individui estremamente poveri, in quanto schiavi di credi, di ideologie, schiavi di istituzioni che si dicono religiose e che chiudono l'uomo in recinti dove, limitato e impaurito, non può fare altro che supplicare felicità e salvezza a mezzani autorizzati. L'unica strada che l'uomo ha è rompere queste gabbie, crescere, apprendere, amare, andare oltre i limiti, abbracciare la totalità. E invero la donna, che a rapidi passi si allontana dal mare diretta verso la città, è profondamente religiosa in quanto indaga una realtà che è dentro di lei e fuori di lei, in un percorso di libera ricerca ed esperienza. Ella è guida di una società futura in cui verranno prodotti non solo situazioni di carattere fisico, bensì anche beni spirituali. Una teocrazia basata sull'aspirazione individuale di ogni essere umano a riconoscere in sé l'io divino e sul rispetto per ciò che ella o egli desidera portare avanti. La donna è maestra che ha coscienza, questa è la vita, conoscenza, questo è il rispetto della libertà. Fede, ovvero la ricerca del divino e non di Dio. Questo è l'insegnamento. Ero consapevole di essere nel santuario di Delfi, anche se sapevo con certezza assoluta che esso era stato chiuso e i responsi dell'oracolo proibiti già da molti anni. E non erano più le esalazioni che, scaturendo dalle profondità del suolo, inducevano l'entusiasmo nella pizia e ne risvegliavano le virtù profetiche. Gli antichi e le antiche affermavano che le arti della predizione, che sono la vista dell'anima, benché siano di natura divina, possono declinare e scomparire, in quanto non sono in grado di contrastare all'infinito l'azione del tempo. E anche il cosmo è soggetto a trasformazioni e distruzioni e a rinascite continue. Io ero a conoscenza che, a giudizio dei miei predecessori e delle mie predecessore, esistono nell'universo due principi, quello attivo e quello passivo. Il principio passivo è la sostanza senza qualità, la materia, mentre il principio attivo è il logos o ragione che è in essa. Il logos è la causa. È la parte divina ed eterna e diffusa nella materia da origine ad ogni singolo ente. La parte divina si trasforma e si espande insieme al cielo, alla terra e ai rispettivi elementi, ma il tutto, o natura universale, pervenuto ad un punto preciso dell'evoluzione, si contrae e ritorna allo stato originario della formazione del mondo, dove è concentrata tutta la sostanza, e vi è un nuovo risveglio, che dà origine al grande anno di 10.800 anni solari e alla creazione di un nuovo tempo, poiché questi deve nascere insieme al mondo, in quanto estensione del movimento del cosmo. Infatti ogni essere o cosa si muove e vive secondo il tempo. Vi sono quindi infinite palingenesi ed espansioni con periodi che si ripetono dall'eternità. Tutte le forme cambiano e si trasformano finché il principio superiore non prevale su tutto. La trasformazione delle cose non dipende da un agente esterno, ma è connaturata alle cose stesse, come se ognuna di esse fosse impegnata in una vorticosa gara al fine di conseguire il primato. Ma il principio superiore, che a natura ignea, assorbe in sé la sostanza di tutto ciò che esiste e si rivela più grande e più splendente di prima, e si espande di nuovo in uno spazio di ancor più grandi dimensioni, intelligenza intergalattica che governa innumerevoli stelle e mondi. Io ero in un luogo in cui si manifestano visioni, dove l'anima, che ha il potere della memoria, ossia di rivestire di realtà avvenimenti che non esistono più, acquista in particolari condizioni la possibilità di annunciare eventi futuri, come se il luogo e il fluido che emana da un crepaccio permettessero il manifestarsi del divino e l'accendersi delle qualità profetiche di una donna che risponde alle domande. Ma le risposte non sono mai chiare. Le domande non sono mai poste con estrema precisione. Sapevo che gli dèi stavano abbandonando il mondo, la forza universale si ritirava, ma io non conoscevo le domande, anche se ambivo profondamente alle risposte. Volevo tornare al luogo dove ero nata, molti secoli prima, in un luogo dove ricerca e scoperta erano possibili. Ma il giusto luogo non è mai una posizione limitata nello spazio e nel tempo, bensì essenzialmente i legami che noi riusciamo a creare con le persone che vivono il nostro tempo. Questo è il vero luogo. Nei momenti in cui creiamo legami con il nostro tempo, attraverso le persone che incontriamo, nascono gli spazi e questa è la creazione. Ogni donna o uomo ha una grande possibilità di creazione, ossia creazione di nuovi spazi attraverso le azioni con le quali si interagisce con gli altri. La volontà deve manifestarsi in un'azione che deve raggiungere l'obiettivo desiderato, per cui l'effetto di questa azione ritornerà sulla stessa individualità che ha generato l'azione stessa, non necessariamente intesa come persona fisica, ma come individualità. Occorre quindi un soggetto passivo che riceva l'azione, il momento giusto per realizzarla e in un certo senso deve esserci una necessità cosmica affinché questo evento accada. Il divino, o forza primaria, è sottoposto alla stessa legge. Nell'istante iniziale della creazione, la sua azione fu diretta verso un obiettivo preciso, la creazione di un numero incalcolabile di possibilità che devono realizzarsi, ossia questa manifestazione, e questa manifestazione deve conoscere e produrre coscienza e tornare al centro che l'ha generata. Quindi la divinità conosce se stessa attraverso la sua creazione, in quanto si impossessa delle conseguenze di quelle azioni che ha messo in moto. Sia l'essere vivente che l'energia divina non potrebbero affrontare un discorso di crescita se le conseguenze delle loro azioni non convergessero su loro. Devono far propri tali effetti a livello cosciente, è l'unica possibilità che hanno di conoscere se stesse. Non esiste un Dio creatore disgiunto dal cosmo, esso è morto, è stato ucciso da coloro che, partendo da un principio di responsabilità personale, danno loro stessi e stesse un senso alla propria vita. Non più un principio esterno regolatore di un universo in apparenza caotico, bensì la donna, l'uomo che danno un ordine al mondo intorno a sé, ricercando e conoscendo le leggi che governano l'esistenza e la trasformazione della materia, affinché il principio razionale da cui muove l'azione porti ad una crescita continua, ad una espansione e non ritorno indietro, alla creazione senza fine di nuovi spazi e materia e di nuova intelligenza cosmica. Non più una contrazione e di conseguenza un nuovo ciclo, ma una materia via via più cosciente e lo sviluppo di nuovi universi. Il dovere di compiere qualcosa che non si conosce è l'unica possibilità che abbiamo di diventare perfette. Abbiamo a volte l'impulso ad agire senza conoscere l'obiettivo, ossia aspiriamo a qualcosa di misterioso e sappiamo in fondo che il nostro destino, che è l'unica possibilità che possiamo realizzare in questa vita. Spesso non cerchiamo quello che non conosciamo, rinunciando alle nostre più profonde aspirazioni. Mi ritrovai sconvolta dalle visioni che irrompevano nel mio mondo. Il mio mondo, in fondo ordinato, si stava disgregando e non solo sul piano del quotidiano, con la violenza degli avvenimenti che premevano intorno a me, interrompendo i miei studi, disperdendo gli allievi e le allieve, impedendo le pubblicazioni dei risultati conseguiti nel molteplice ma unico campo della conoscenza. Bensì, era come se un impulso premesse sulla mia mente, dentro il mio corpo, quasi che la mia vita venisse misteriosamente influenzata da un insegnamento illuminato. Voci del passato e del futuro mi parlavano, mi mostravano quello che la scienza e la tecnologia del mio tempo non avevano ancora esplorato. E non solo la mia mente era presa, ma anche il mio corpo viveva negli spazi che una forza cosciente plasmava per me. Donna e maestra, ero partecipe della grande scena del cosmo, protagonista e quindi responsabile delle mie azioni, non più separata da quello che faccio. Ma io sono quello che faccio. La mia vita scorreva impetuosa, avvolgendomi in situazioni di paura, di odio, di amore, di evoluzione, chiamate con coraggio dal profondo di me stessa. Potere di cambiare, di fermare o di estendere, eliminare le false percezioni sulla materia, di strappar via la morte dal mondo, di strappar via la morte dal mondo. Le voci erano vibrazioni intorno a me, accompagnavano i miei passi e mi istruivano, comandi interiori a cui non era possibile opporsi, e i miei discepoli, giovani donne e uomini, sparsi tra i colonnati e le statue del tempio, abbandonano sui tavoli i rotoli e le pergamene e si appressano a me.